I dati di questa indagine sono che su più di 1.000 persone che abbiamo intercettato attraverso questa rilevazione, solamente una su 5 può dirsi al riparo da qualsiasi tipo di vittimizzazione, per cui il 20% ci ha dichiarato di non aver mai incontrato né violenza né discriminazione. Ciò significa che 4 persone su 5 invece l'hanno incontrata e l'hanno incontrata in modo pesante. Ad esempio, i tre quarti delle persone che abbiamo intervistato, dunque più del 75%, ci hanno detto di subire, di aver subito insulti e derisioni sia nel mondo virtuale, per cui online, sia nel mondo reale, per cui offline. Più del 50% invece ci ha dichiarato di aver subito e di subire minacce sia nel mondo virtuale che nel mondo reale, e il 60%, per cui 6 persone su 10, ci ha dichiarato di aver subito e di subire invece un fenomeno che si chiama tecnicamente outing, cioè il fatto di subire la rivelazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere in modo indesiderato. Sono dati importanti. Abbiamo anche rilevato invece le forme di aggressione fisica che pensiamo essere molto lesive, ad esempio le aggressioni fisiche, percosse e botte, e le aggressioni sessuali. Il 10%, più del 10%, se non sbaglio l'11% delle persone ha dichiarato di aver subito nella vita una violenza sessuale, e non è un dato banale, mentre una persona su 5 ha dichiarato di aver subito o di subire in maniera continuativa aggressioni fisiche, per cui percosse e botte. Il rapporto col mondo del lavoro è complicato. Il nostro è un campione giovane, per cui l'età media è pari ai 34 anni, per cui sono state realizzate altre ricerche specifiche sul mondo del lavoro, però anche noi abbiamo intercettato una percentuale non marginale di persone che dichiarano di aver subito discriminazione al lavoro, il 20% ce l'ha dichiarato. Al tempo stesso però abbiamo un 25%, questo è un dato interessante, un 25% di persone, per cui una su quattro, che ci ha dichiarato di aver evitato di proporsi per un colloquio di lavoro per timore di subire derisioni, calunnie o discriminazioni. Questi sono dati importanti. L'accesso invece ai servizi sanitari? L'accesso ai servizi sanitari, dunque, parliamo di una regione molto friendly da questo punto di vista. Nonostante ciò, una persona su cinque ci ha dichiarato di aver incontrato discriminazioni nel rapporto con il personale medico-sanitario. Parliamo di non sempre di un'ostilità manifesta, ma parliamo ad esempio anche di la denuncia di una semplice mancanza di informazioni. Semplice mancanza di una consapevolezza da parte del personale medico, che si traduce spesso in supposizioni di eterosessualità obbligatoria, in supposizioni di binarismo, per cui tutti sono pensati come uomini o come donne, le persone non binarie si trovano ovviamente male, oppure la rivelazione della propria identità in maniera indesiderata. Anche lì si chiama il paziente per nome di nascita e non per nome di assegnazione. Quante di queste persone riescono a denunciare? Questo è un dato che ci aspettavamo, è un dato che ricorre regolarmente in tutte le ricerche sulla discriminazione in base al genere, in base all'orientamento sessuale, ma anche in base alla provenienza etnico-razziale. Nel nostro caso circa una persona su due, per cui grosso modo il 50% delle persone che subiscono episodi discriminatori non ne parla a nessuno. Non ne parla a nessuno vuol dire che non si limita a non denunciare alle forze dell'ordine, ma non ne parla a nessuno, non lo dice né agli amici, né alle amiche, né ai familiari, né alla associazioni, né ai professionisti né ai sindacati. Questo dato ci dice che si tratta di un'esperienza di vittimizzazione che rimane per una fetta importante nascosta, priva di voce. Quando si decide invece di parlarne con qualcuno, si preferisce parlarne con i propri familiari, per cui tra chi ne parla a qualcuno, l'80% ci ha dichiarato di farlo con i propri familiari o con i propri amici, per cui nelle reti primarie. Le persone che invece si rivolgono alle forze dell'ordine sono una percentuale molto contenuta, mi pare che sia il 5% dell'intero campione e grosso modo il 10% di chi decide invece di denunciare. E come mai così poca gente denuncia? Denunciare una violenza subita per orientamento sessuale o identità di genere significa esporsi, significa ammettere una scelta identitaria che talvolta si preferisce tenere nascosta. Primo aspetto. Secondo aspetto, c'è una paura, tecnicamente si chiama vittimizzazione secondaria, c'è una paura che denunciando una violenza che è capitata, le forze dell'ordine o comunque le istituzioni a cui si consegna la denuncia ritengano la persona responsabile o corresponsabile dell'episodio che ha subito. Il campione che avete selezionato presenta una formazione comunque elevata. Come mai avete fatto questa scelta e crede che in caso di un campione campione diverso, ci potrebbero essere risultati? Naturalmente, qualsiasi indagine campionaria, i risultati di qualsiasi indagine campionaria dipendono dal tipo di campione che si riesce a reclutare. Questo tipo di ricerche, le ricerche sulla vittimizzazione relativa a discriminazione e violenza, agiscono sempre secondo un modello classico, cioè chiedendo il contributo alle associazioni. Le associazioni riescono ad intercettare persone visibili, persone istruite, il cui capitale culturale permette loro di partecipare alla vita associativa. Naturalmente ciò significa che esiste un'ampia fetta, che non possiamo stimare, di persone invece che subiscono episodi negativi e che non si riesce a intercettare, per vari motivi. Ad esempio, il campione che abbiamo intercettato è prevalentemente italiano e questo ce la dice lunga. Intervistando i testimoni privilegiati, cioè le rappresentanti, i rappresentanti delle associazioni, quello che emergeva era un'aspettativa che nel mondo dei social e nel mondo del web circolasse la fetta più ampia di calunnie, di derisioni, di prese in giro e di insulti. Non è così, perché c'è il mondo fuori dalla rete, c'è il mondo, e quel mondo produce una serie importante. Noi abbiamo fatto il calcolo è che il rapporto tra violenze offline e violenze online sia di 2-1, per cui fatto 2, contati come 2 gli episodi offline, 1 accade online. Perché questo accade? Non lo so, ma se non banalmente constatando che oltre la rete c'è un mondo di cui si tende a dimenticarsi, perché l'attenzione è ovviamente rivolta ai pericoli della rete. La rete è molto più accessibile ai giovani, il nostro è un campione giovane, eppure anche i giovani ci dichiarano di subire derisioni, calunnie, insulti, offese, prevalentemente nel mondo rete.